pensiamo che si debba davvero cercare di fare un salto di qualità nel contrasto a mafie e corruzione. Siamo un'associazione che da anni sta facendo approfondimenti, che studiamo il fenomeno e pensiamo, insomma, di poter mettere a disposizione un patrimonio di proposte che possono essere utili per la città. In particolare sono quattro, diciamo così, i capitoli su cui avete impostato le vostre proposte. Qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo parte da una parola e un aggettivo che sono legalità democratica. Legalità democratica perché pensiamo che la legalità debba partire da due poli: da un lato una legalità non imposta ma partecipata, ma condivisa, ma frutto dell'elaborazione, del confronto di una comunità, e dall'altro, l'altro polo è una legalità che tenga sempre presente i diritti delle persone, in particolare delle persone più deboli. Sappiamo che le mafie sono oppressione, sono ingiustizie, sono diseguaglianze. Le mafie mettono in discussione i diritti delle persone in tanti ambiti, il lavoro, l'ambiente, e quindi questa è la nostra idea di legalità che abbiamo provato a poi declinare in tante proposte concrete. Per quanto riguarda la sicurezza, voi dite: noi non vogliamo una militarizzazione della città. No, perché non pensiamo che sia la strada giusta per contrastare fenomeni di illegalità. Noi pensiamo a una città sicura, in primo luogo, ribadisco, senza la presenza di mafie e corruzione. Questi sono fenomeni sommersi, sotterranei, che ci sono nella nostra società, nella nostra città, che però non vediamo, e quindi non pensiamo che sia necessariamente solo con l'aumento di forza dell'ordine e di polizia in giro per la città che si contrastino questi fenomeni. Certo, l'aspetto repressivo è importante, ma noi davvero pensiamo che da un lato l'aspetto del coinvolgimento della cittadinanza, della comunità nell'elaborazione di un contesto in cui le persone riescano a stare, vivere bene e in cui i diritti delle persone siano rispettati, appunto, deve emergere da processi partecipativi, di confronto e di decisioni comuni, ecco, mi viene da dire. Questo a livello della sicurezza concreta percepito da parte delle persone da un lato, ma anche appunto nell'analisi di fenomeni più profondi e nascosti come le mafie. Penso al tema del monitoraggio civico che proponiamo con forza, a cui si deve legare il tema di un'amministrazione trasparente, più trasparente anche di quello che è finora, insomma, su tanti aspetti, dai bandi al bilancio, alle scelte economiche, agli appalti. Alcuni punti salienti delle vostre proposte nel concreto. Noi ci immaginiamo una totale trasparenza dell'amministrazione sugli aspetti che ho detto prima. Posso aggiungere anche il tema delle partecipate del comune, delle nomine dei dirigenti appunto nelle partecipate, come vengono gestite, come sono i loro bilanci. Ecco, quindi da questo lato una totale trasparenza e dall'altro una valorizzazione del monitoraggio civico di cittadini e cittadine e delle associazioni interessate ai temi. Questo per noi è un passo fondamentale, anche l'incrocio dei dati che il comune ha per provare a capire quali sono gli indici di rischio di infiltrazioni mafiose, tipo passaggi di proprietà sospette, tipo il tema dell'evasione fiscale, e potrei continuare. Ci sono tantissimi dati che basterebbe incrociare e si capirebbe davvero in modo più approfondito quello che si muove sul nostro territorio, in un'ottica anche appunto di monitoraggio e, se possibile, non solo di appunto repressione ma anche di prevenzione. Un'altra proposta a cui teniamo molto è un osservatorio sui rifiuti. Noi sappiamo che lo smaltimento dei rifiuti è una delle più grandi, dei più grandi business della criminalità organizzata in Italia e non solo. Ecco, qua ancora non è emerso niente, però per eventualmente prevenire, o per non dire scoprire, ma pensiamo alla prevenzione, riusciamo a creare un osservatorio che monitori davvero appunto come vengono smaltiti sul nostro territorio i rifiuti? Questi aspetti di prevenzione sul nostro territorio, nella nostra visione, si legano anche strettamente al discorso culturale, che per noi è davvero fondamentale. I beni confiscati che abbiamo sulla nostra città, a partire da Villa Celestina, renderli davvero simboli non solo della presenza mafiosa a Bologna, perché c'è bisogno di far capire che la mafia c'è, ma dall'altro anche simbolo del riscatto e di un riutilizzo sociale dei beni confiscati. Questo aspetto culturale per noi è centrale. Potrei dire anche i percorsi nelle scuole, aumentarli, perché diciamo che non si può fare uno sforzo in più rispetto agli ultimi anni su questo aspetto. E penso anche a tutto il ragionamento sulle memorie collettive. Ecco, Bologna come città appunto sul tema delle memorie è unica in Italia, e pensiamo davvero che possa essere importante fare uno sforzo ulteriore per fare politiche davvero di trasmissione di queste memorie della storia della nostra città, in particolare ai più giovani.